2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Potete contattarci tramite Facebook, Twitter oppure 2024@radio24.it. Questa è stata una ennesima settimana in cui sono uscite notizie legate alla cyber security, alla sicurezza informatica o, come si dice, come dicono alcuni esperti, la sicurezza cibernetica. Direi che c'è stato uno dei tanti attacchi ransomware, perché ricordiamo che nonostante alcune epidemie ransomware vengano poi riprese dai media di tutto il mondo, in realtà molte altre epidemie ransomware non arrivano sui media internazionali, ma sono altrettanto pesanti. Comunque questa settimana c'è stata una variante di un malware chiamato Petya, che va sotto la categoria ransomware. Ricordiamo che il ransomware è quella categoria di malware, quella categoria di epidemie digitali che una volta che si riescono ad installare per vari motivi su un computer, una rete di computer o altri sistemi più complessi, riescono a criptare tutti i dati e solo in cambio, alcune volte, non sempre questo funziona, solo in cambio di una sorta di riscatto digitale che spesso viene chiesto in Bitcoin, vengono liberati questi file, quindi un'azienda oppure un privato può tornare in possesso dei propri file, che siano contenuti di vario genere, audio, video, cose scritte o documenti vari. Questo è stato un attacco piuttosto violento, importante. Come sempre, come abbiamo detto in altre occasioni, soprattutto in occasione recente quando abbiamo parlato di WannaCry, perché alcuni principi sono simili a WannaCry, l'importante è avere sempre sistemi aggiornati sia in azienda, soprattutto in azienda, ma ovviamente anche a casa. Quando diciamo sistemi aggiornati intendiamo anche le app del proprio smartphone, il proprio smartphone inteso come sistema operativo, quindi fate in modo che questi aggiornamenti siano automatici, oppure è consigliabile ogni tanto andare a vedere, anzi direi tutti i giorni, andare a controllare se le applicazioni oppure il sistema operativo vanno aggiornati. E poi vale sempre la regola che se vi arriva una email da un indirizzo sospetto con cose scritte strane, e magari ha un allegato, è bene non aprire quell'allegato. E il fatto che ci sia stata questa nuova epidemia dimostra che purtroppo molte aziende, molti privati non sono attenti a tutto quello che sta succedendo, sono distratti e quindi cliccano un po' dappertutto. E poi molti sistemi non sono aggiornati, anche molti sistemi antivirus, anti-malware, sistemi che dovrebbero essere dedicati alla sicurezza, non sono sufficientemente aggiornati. E questo è effettivamente un problema. Una cosa interessante di questo attacco è che uno dei veicoli di infezione è stato un aggiornamento software rilasciato da un'azienda ucraina che produce un gestionale molto diffuso in Ucraina. Insomma, una cosa abbastanza originale, quindi è sicuramente interessante che il veicolo di infezione sia una fonte che in teoria dovrebbe essere sicura per le aziende. Tu mi vendi un gestionale e ovviamente mi mandi con intervalli regolari gli aggiornamenti di questo gestionale, questa azienda è stata attaccata e è stata lei stessa veicolo di infezione. Quindi questo è un ulteriore tassello e un ulteriore fronte d'attenzione. Questa è stata anche la settimana della multa da oltre 2,4 miliardi di euro che l'antitrust europeo ha dato a Google per il servizio di comparazione dei prezzi Google Shopping. L'accusa della Commissione europea è che questo servizio, che compara prezzi direttamente nella pagina del motore di ricerca, penalizza i concorrenti. Allora, ricordiamo che l'indagine è stata molto lunga, approfondita, durata 7 anni, e a prescindere dai possibili motivi, che sicuramente insomma un pizzico ci sono, di carattere geopolitico tra Europa e Stati Uniti, c'è però tutta una parte legata alla tecnologia, perché tra l'altro è la prima volta che al centro di una importante decisione dell'antitrust c'è un algoritmo. Quindi questo è un aspetto interessante, tra l'altro un algoritmo che è segreto per gli investigatori, che hanno dovuto fare una sorta di, si dice, reverse engineering, cioè hanno dovuto capire con prove sul campo, su internet, come funziona questo algoritmo, e sono arrivati alla conclusione che effettivamente quello che Google fa con Google Shopping penalizza siti concorrenti. Ricordiamo che questo servizio compara prodotti di siti di e-commerce disposti a pagare Google per essere in posizione privilegiata, quindi un servizio tramite il quale Google guadagna soldi, e ovviamente i siti che comparano prezzi, che fanno questo di mestiere, sono in difficoltà di fronte a questo servizio. E tra l'altro le conseguenze di questa decisione aprono scenari che in futuro potrebbero diventare un terreno di scontro ulteriore tra l'antitrust europeo, o comunque gli altri antitrust del mondo, e la stessa Google, che potrebbe aprire servizi in concorrenza con altre aziende e quindi abusare della propria posizione dominante. La propria posizione dominante, che l'abbiamo ricordato anche in altre puntate di 2024, è particolarmente forte in Europa, molto più forte che negli stessi Stati Uniti, dove Bing ha una quota di mercato non elevatissima, ma comunque attorno al 10%. Ci sono altri paesi come la Russia, dove c'è Yandex, che è molto forte, la Cina, la Corea del Sud, dove ci sono altri motori di ricerca che sono molto forti e fanno concorrenza a Google. Comunque, insomma, è un aspetto interessante che ovviamente avrà delle conseguenze. Vedremo poi quali saranno le decisioni, perché Google ha annunciato un ricorso, quindi dovranno passare ancora molti mesi prima che questa multa diventi o non diventi efficace. Insomma, è un aspetto interessante di cui magari torneremo a parlare a 2024, almeno per quanto riguarda gli aspetti tecnologici. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Il 3 luglio sarà una data storica per la TV italiana, perché per la prima volta verrà trasmesso un contenuto in tecnologia 4K HDR. Si tratta in particolare del documentario su Venezia, già trasmesso dalla RAI, un documentario di Alberto Angela che ha avuto un buon successo, e verrà trasmesso nuovamente sulla piattaforma satellitare TVSAT, sul canale 210. Ricordiamo che per vedere questo tipo di qualità 4K HDR serve sia un televisore 4K, ma che abbia anche una tecnologia in grado di gestire segnali HDR. Sarà quindi un evento per pochi, perché probabilmente sono pochi, anche se gli utenti di TVSAT sono oltre 2 milioni. Ricordiamo che però bisogna appunto avere una TV 4K, e non tutti i TV 4K possono gestire questo tipo di tecnologia. Ricordiamo che HDR aumenta la gamma dei colori e permette di avere immagini con un maggiore realismo, immagini veramente molto belle, che associate al 4K, che è 4 volte l'HD, quindi ha una definizione 4 volte superiore alla classica alta definizione, quindi è per quello che si chiama anche Ultra HD, rende appunto immagini molto molto belle. Ricordiamo anche che per apprezzare questo tipo di definizione, questo tipo di immagine, bisogna avere un televisore molto grande ed essere non troppo lontani dal televisore, perché se si è lontani praticamente sembra quasi un normalissimo HD. Di questo abbiamo parlato altre volte, magari torneremo anche sul tema. Alcune partite della prossima stagione della Champions League europea verrà trasmessa in streaming negli Stati Uniti su Facebook, e sarà gratis. Giusto per capire come stanno cambiando gli scenari. Allora, ovviamente negli Stati Uniti c'è molto meno interesse rispetto all'Europa per questo tipo di evento, anche i diritti costano molto meno, ma ci fa capire qual è l'intenzione di grossi player come ad esempio Facebook, che tra l'altro dovrebbe iniziare a proporre spettacoli in streaming autoprodotti attraverso la propria piattaforma dalla prossima stagione. Quindi nei prossimi anni i normali broadcaster televisivi dovranno fare i conti, già oggi devono fare i conti, ma sempre più nei prossimi anni, con questi grandi player: Facebook, Google, Amazon, Apple, questi grandi player internazionali, Netflix ovviamente, vedremo come si trasformerà il mercato nei prossimi anni. A proposito di TV, una operazione della Guardia di Finanza italiana, Guardia di Finanza di Cagliari, che ha sequestrato 9 siti internet e 89 server attraverso i quali era possibile vedere illegalmente i canali a pagamento di Mediaset Premium e Sky. Oltre allo streaming c'erano anche contenuti on demand in alta definizione per un totale di, pensate, quasi 180 terabyte. La Guardia di Finanza dice che le indagini potrebbero arrivare fino a chi ha comprato questi contenuti pirata, perché è ovvio che se ti offrono questo contenuto che normalmente costa, che ne so, 10 e te lo fanno pagare 2, uno dovrebbe, a parte che lo sanno benissimo che è un contenuto pirata, quindi ben vengano queste operazioni, anche se devo dire che alcuni consumatori lamentano la non adeguata tecnologia di alcuni di questi servizi confrontati con le migliori esperienze in streaming, quelle legali. In effetti, di strada da fare sia per Mediaset Premium che per Sky, per avere servizi molto più moderni e anche tecnologicamente molto più evoluti, ce n'è da fare tantissima. Anche la relazione con il cliente, i servizi in streaming oramai si accendono e spengono senza nessun tipo di problema, invece in questi casi, per quando parliamo di TV tradizionale, che sia via satellite o digitale terrestre, gli abbonamenti sono ancora fatti alla vecchia maniera. Addirittura c'è ancora chi ti chiede il fax oppure la lettera firmata con la copia della carta d'identità, cose che per uno che usa servizi in streaming sono un po' datate. Certo che questo non toglie che chi guarda servizi illegali deve essere punito, e soprattutto devono essere puniti coloro che propongono questo tipo di offerte online. Un'altra notizia che riguarda Google, che ha annunciato che entro l'anno non leggerà più il contenuto delle email per fornire messaggi pubblicitari personalizzati. Alcuni di voi sapranno e ricorderanno che Google legge, naturalmente in maniera anonima, sono delle macchine che leggono il contenuto delle email che transitano sulla Gmail, e se uno si scambia messaggi con una compagnia aerea, il sistema desume che uno stia viaggiando oppure è interessato a viaggi e apparirà pubblicità legata a quel tipo di contenuto. Google ha deciso che la pubblicità in Gmail, che comunque rimarrà, ma verrà fornita in base a dati che arriveranno da altre fonti, ed effettivamente le fonti per raccogliere dati su quello che noi facciamo e quello che a noi piace, a Google sicuramente non mancano. L'ultima notizia riguarda un finanziamento sempre molto importante negli Stati Uniti. Il portale OUZ, che è un sito specializzato in arredamento, architettura, progettazione e ristrutturazioni. Se siete quindi un architetto, comunque una persona che si occupa di questo settore, conoscerà sicuramente OUZ, ha ricevuto un finanziamento, pensate, di $400 milioni. Aggiungo un'altra notizia della settimana che riguarda il mondo dello spazio, ma poi in realtà riguarda tutti noi che viaggiamo e che anche quando siamo in aereo desidereremmo avere una connessione ad internet. Abbiamo commentato anche nelle ultime settimane lanci di satelliti dedicati espressamente alla connettività per gli aerei e per fornire wifi a bordo degli aerei. Allora, questa settimana un Ariane 5, un razzo europeo Ariane 5, ha mandato in orbita un grosso satellite, un satellite gigantesco, Hellasat 3 e Inmarsat, quindi gestito da queste due società, che fornirà connettività in volo per i passeggeri europei. C'è una fortissima richiesta da parte delle compagnie aeree per fornire connettività a bordo degli aerei e per creare hotspot Wi-Fi a bordo. Alcuni di questi servizi sono gratuiti, altri sono a pagamento, ma è una evoluzione del mercato che vedremo molto forte nei prossimi anni. Adesso parliamo di e-commerce, ma di un e-commerce molto particolare. Parliamo delle vendite online di alimentari o altri prodotti da supermercato, prodotti che consumiamo quasi tutti i giorni, diciamo quelli che mettiamo nel carrello della spesa, che le vendite cresceranno nel 2017 del 37% rispetto allo scorso anno e valgono, questa è una stima per questo 2017, poco più di 800 milioni di euro, 812 milioni di euro. La stima è degli osservatori della School of Management del Politecnico di Milano, in particolar modo l'osservatorio sull'e-commerce B2C, cioè il business to consumer, quello per i consumatori, perché c'è anche una fetta di e-commerce B2B, quindi tra player commerciali, molto interessante. Comunque questo e-commerce del carrello della spesa incide ancora per solo il 4% del mercato totale dell'e-commerce italiano, che vale oltre 23 miliardi di euro. La consegna di alimentari e altri prodotti di uso quotidiano cresce quindi anche online e quasi tutte le grandi catene stanno investendo per migliorare i servizi che già ci sono o per lanciarne di nuovi. Ma visto che parliamo soprattutto di alimentari, perché nel carrello della spesa finiscono soprattutto alimentari, è ovvio che la logistica ricopre un ruolo fondamentale. Ad esempio, non è che ti puoi permettere la mancata consegna, quindi bisogna essere molto precisi, molto efficienti e soprattutto non è che puoi consegnare i prodotti giorni dopo. Però per parlare di questo è con noi Antonio Perini, fondatore di Milkman, esperto di logistica. Antonio, bentornato a 2024. Grazie. Ti faccio subito raccontare che cosa c'è dietro a Milkman, qual è l'idea, perché è un'idea che secondo me è interessante, ne vogliamo parlare, anche perché questa idea si sta espandendo. Che cosa fa Milkman, l'uomo del latte? Milkman parte dalla consapevolezza che acquistare online non è così facile, o meglio, è estremamente soddisfacente il tipo di esperienza che si vive interagendo sul web, ma quando poi si preme il pulsante compra si entra in un mondo di opacità, di poco controllo. Insomma, l'aspetto legato all'ultimo miglio della consegna a domicilio è quello che rende più difficile per l'utente comprare effettivamente ciò che desidera, ciò che vuole. Può essere perché il costo della consegna impatta sul valore del carrello in una maniera che è eccessiva rispetto alle valutazioni di chi fa acquisti. Può darsi invece semplicemente che la vaghezza del potenziale arrivo del corriere ci induca ad abbandonare l'idea di finalizzare l'acquisto. Cioè, tra l'altro questo succede. Succede regolarmente, pare che a livello globale, tra l'altro non solo in Italia, sia più di uno su due che abbandona il carrello quando si accorge che insomma è inadeguata l'offerta di opzioni di consegna a domicilio. Cioè la domanda quando mi arriverà è quella che forse frena di più. Ci sono diverse prospettive da cui possiamo analizzare questo tipo di esigenza. In qualche caso io ho bisogno subito, quindi dico o mi arriva subito o non compro. In altri casi mi chiedo quando arriverà, così da garantire che ci sia qualcuno a ricevere il pacco. In altri casi ho delle esigenze specifiche. Oggi sono via per lavoro, di sicuro non desidero che mi arrivi la merce. Quindi a volte anche il processo di reattività estrema che la logistica sta perseguendo in questi anni non necessariamente incontra le esigenze del consumatore. Ah certo, cioè tu stai dicendo io compro oggi e dico vorrei la cosa fra una settimana al pomeriggio. Sembrerà strano, ma invece la nostra esperienza mostra proprio questo, ovvero la reattività, cioè la velocità di esecuzione, è sicuramente un valore. Un valore più importante è quello della predicibilità. L'utente che pianifica la sua vita sa che domani tornerà dal lavoro dopo le 18:30, di conseguenza vorrebbe poter dire semplicemente non venite prima perché non mi trovate. Peraltro è uno spreco importante sia a livello di impatto ambientale che semplicemente di costi, che poi vanno a finire sul costo per la consegna che pagano tutti. L'utente quindi spesso vorrebbe dire quando è disponibile o quando intende rendersi disponibile. È chiaro che ci sono utenti che danno più valore al loro tempo e altri che danno più valore al loro denaro. Milkman nasce per offrire una gamma di opzioni molto ampia. Ecco, allora spieghiamo che cosa fate. Tutto basato su algoritmi, tutto su tecnologia piuttosto pesante. Sì, è un modello matematico addirittura proprietario che ha dettato i termini dello sviluppo di software, algoritmi, certo, e non solo in realtà, perché la parte di elaborazione è quella più complicata, ma esiste un mondo che è quello delle interfacce, quelle che esponiamo agli autisti, ai nostri corrieri, che poi eseguono effettivamente la consegna, al nostro magazzino per aiutarli a fare per organizzare il loro lavoro, per caricare i veicoli nei tempi rapidi e secondo poi quelle che saranno le consegne nella sequenza ordinata. In breve, quello che fa Milkman è di offrire un servizio al consumatore da una parte e al negozio online dall'altra, sono due linee diverse, in cui offriamo la possibilità di dirci quando uno intende rendersi disponibile. Quindi abbiamo utenti che dicono venite oggi stesso, dopo le 5, altri utenti che dicono venite domani, ma entro le 11, alcuni utenti che ci dicono voglio la consegna stasera tra le 8 e le 8 e mezza, semplicemente perché la loro esigenza è quella. Allora, tu dicevi due servizi differenti. Partiamo dal primo, per parlare del secondo abbiamo qui un ospite e tra poco ve lo presenterò. Il primo, fammi capire qual è l'esperienza dell'utente e anche il motivo per cui io dovrei rivolgermi a Milkman, cioè usare l'app di Milkman invece di utilizzare il servizio di consegna del negozio online dal quale io acquisto. Il consumatore che ha dei problemi a ricevere la merce, di solito cosa fa? O spedisce in ufficio, o fa spedire alla suocera, che poi però fa un sacco di domande, oppure diciamo che compra solo se è veramente molto motivato e poi si rende disponibile. È sicuro di essere a casa, perché lui dice ma bisogno del computer nuovo, sì, certo. Insomma in qualche modo devo farmi trovare a casa. Quello che la app di Milkman, che si può scaricare dagli App Store, dal Google Play Store, rende fattibile invece è di creare quello che noi chiamiamo un indirizzo Milkman. Non è nient'altro che l'indirizzo del nostro magazzino qui a Milano e l'utente fa spedire i suoi pacchi lì. Noi li riceviamo, li notifichiamo all'utente finale e tipicamente quello che succede a quel punto è niente, perché spesso l'utente desidera consolidare più acquisti in un'unica consegna finale. Primo perché è più conveniente, secondo perché anche il senso, credo, di rispetto ambientale si fa via via più sentito e inoltre perché lo disturbiamo meno. A volte se io compro un oggetto che non è strettamente necessario, per esempio fra due settimane si sposa mia cognata, ho bisogno di una nuova cravatta, ma non mi serve oggi. No? Se si possa aspettare, tu dici. Esatto, l'importante è che arrivi entro. Acquista varie cose, le archivia, cioè le tiene in magazzino, le da custodiamo Milkman, noi. Certo, e poi fa una consegna. Però al di là di questo, anche sul singolo prodotto, il vantaggio, cioè la vostra proposta, è quella di dire noi abbiamo un sistema e una tecnologia tale per cui invece di aspettare magari una mattina intera che arrivi il corriere, io ti dico esattamente che vengo fra tre giorni alle 11:30 del mattino. Esattamente, quando l'utente finalmente vuole la sua consegna, tipicamente poi è una decisione che prende il giorno stesso in cui la desidera, quindi è ovvio che noi come nuovo corriere dobbiamo essere un corriere, fatemi dire, same day, ovvero in grado di consegnare nella stessa giornata dell'ordine. E gli proponiamo una semplice interazione nella nostra app in cui ci dice il giorno in cui lo vuole, compreso oggi, domani o qualsiasi data futura, l'orario di inizio della loro disponibilità e in modo del tutto indipendente anche l'orario di fine. Perché questi due vincoli sono scelti separatamente? Perché più tempo ci dà a disposizione, più la nostra logistica riesce ad essere efficiente. Se dobbiamo rispettare un vincolo molto stretto, venite oggi dalle 8 alle 8 e mezza, è chiaro che dobbiamo... Ti devi organizzare bene. Sì, dobbiamo organizzare i percorsi dei nostri autisti in maniera tale da non rischiare di arrivare in ritardo. Sì. Io dico sempre, è facile offrire le fasce orarie se poi si bucano tutte. Ah, certo. Invece tu dici, devo essere, anche perché devo sono essere arrivato da poco sul mercato... Esatto. Ma per garantire tutto ciò tu fai pagare soldi? Sì, l'app che noi offriamo al consumatore ha il doppio beneficio che a loro genera il valore di ricevere una consegna quando desiderano e quando risulta più comodo. A noi dà la possibilità di capire meglio le loro esigenze, perché spesso il corriere è intermediato da un sito web, dall'e-commerce, e che ha le sue esigenze e raramente è in grado di incontrare effettivamente le aspettative dell'utente finale. L'utente nella nostra app paga un piccolo contributo nel caso in cui la finestra oraria sia molto ampia e viceversa può decidere di darsi appuntamenti più stretti. Ovviamente nelle fasce più ambite il prezzo normalmente sarà più alto. Certo, cioè, se io lo voglio tra mezzogiorno e mezza, quanto mi fai pagare? Tra mezzogiorno e mezza e la mezz'ora in realtà è un servizio sperimentale che stiamo sperimentando a Milano con uno dei nostri clienti che è Italy. Normalmente offriamo un'ora, può costare 5,90€, 6,90€ o anche 4,90€ laddove noi vogliamo incentivare l'adozione di fasce orarie che invece sono più scariche. Ah, certo, perché se l'algoritmo dice alle 4:30 sono vicino a casa tua, quindi tu incentivi il fatto che io prenda l'appuntamento per quell'ora. Esatto, è un processo di razionalizzazione che prevede sostanzialmente l'integrazione delle esigenze dell'utente finale, dell'acquirente, del prodotto, con la complessità della supply chain, senza però parlare un linguaggio logistico, tecnico, che l'utente non capirebbe, ma semplicemente dicendogli quando intendi renderti disponibile. Certo. Tutto ciò sembra facile, in realtà non è facile, dietro c'è un processo tecnologico che deriva da esperienze passate, anche di aziende e tecnologie che tu hai creato negli anni passati. Voi lo fate e la cosa, dicevo, è difficile, tanto che quasi nessun corriere al mondo fa una cosa del genere, o forse nessun corriere al mondo. Nessun corriere al mondo. Esiste un riferimento nell'industria del last mile, in generale dell'ultimo miglio, che è quello del grocery, della consegna negozio di alimentari e di cibo, che non può prescindere dall'incontro con l'utente finale, nel senso che oggi chi fa consegna a domicilio spesso lo fa sulla base di tentativi alla cieca. È come se io e te volessimo incontrarci e io continuassi a passare da casa tua nella speranza di incontrarti, no? Non sarebbe tanto più facile che ci mettessimo d'accordo. Questo è un po' il nucleo. Nella consegna di alimentari, chi fa servizi online ha sempre dovuto offrire l'appuntamento, perché se io buco la consegna, non ti trovo, se la consegna fallisce, non posso provarci l'indomani perché ho merce fresca. Quindi quello è stato per noi un bel faro, perché nessuno aveva mai portato questo tipo di esperienza nel non alimentare, nella merce, diciamo, che non ha bisogno di refrigerare. Tradizionale, sì. Esatto. E il motivo per cui non l'ha mai fatto nessuno, nonostante fosse chiaro a tutti che sia molto molto utile per l'utente finale, è il fatto che è troppo costoso. Quando tu offri delle fasce orarie fisse. Certo, tu dici però, se io sfrutto la tecnologia posso trovare una combinazione, un equilibrio tra il costo di tutto questo, perché voi avete una flotta di furgoni vostri, giusto? Sì, sì, sì. Noi siamo un corriere a tutti gli effetti. In tutta Italia? Siamo attivi solo a Milano e a Roma, al momento abbiamo un piano di espansione nazionale. Allora, voi, questo è il primo mondo, no? Voi offrite questo servizio anche per negozi online. Sì. E infatti è qui con noi Simone Gerola, che è il direttore dell'area digital di EasyCop. Benvenuto. Grazie. Intanto EasyCop, Cop è la Cop, giusto? Esatto, Coop è la Coop, Coop Alleanza 3.0, che è la cooperativa più grande d'Italia, più grande d'Europa, e EasyCoop è il suo e-commerce alimentare. Quindi, attivo dove adesso? Attivo su Roma. Ok. E a brevissimo, a strettissimo giro, fra pochi giorni, anche a Bologna. Anche a Bologna. E il vostro è un negozio online, così come ne conosciamo tanti altri, di frutta e verdura alimentare in genere. Esatto, esatto, c'è un assortimento che supera i 10.000 prodotti, quindi di fatto è assimilabile a un assortimento dell'ipermercato. E infatti la nostra proposition è proprio quella di poter fare la spesa completa come se ti recassi in un ipermercato, quindi dalla frutta alla verdura fino a prodotti per la cura della casa e della persona. Certo, consegna a domicilio, e voi utilizzate la tecnologia di Milkman. Esatto. Perché? Perché quando siamo partiti con questo progetto, quindi circa un anno fa, volevamo trovare un modo differenziante per gestire la parte di consegne, o meglio cercare di superare alcuni limiti che anch'io personalmente come utilizzatore di altri servizi di competitor avevo incontrato. Primo fra tutti quello di essere obbligato a selezionare una fascia oraria prestabilita, solitamente di 2 ore in 2 ore, non potendo allargare, tanto meno restringerla, e soprattutto andando poi a verificare sempre di fatto che le fasce più ambite erano quelle serali, no? Che erano quelle che in realtà servivano di più a me. Sì. Quindi noi cosa volevamo fare? Volevamo superare un po' questo paradigma e l'unico partner che ci ha permesso di fare questo è proprio Milkman. E poi tra l'altro un'altra cosa che voi dite o comunque diremo tra poco, ma mi sembra molto importante, molto interessante, che tu dici queste fasce orarie che sono offerte da quasi tutti i negozi di alimentari online sono fisse, esatto. Nel senso che io, anche fosse la consegna di un'ora tra le 19 e le 20, se io arrivo a casa alle 19:15 non rischierò mai di chiedere la consegna tra le 19 e le 20, perché magari arriva alle 19 e un minuto il furgone. E invece con l'algoritmo di Antonio Perini voi potete dire: puoi prenotare anche tra le 19:15 e le 20:15. Esatto, la granularità è al quarto d'ora, quindi se solitamente esco dall'ufficio alle 18 e quindi ci metto 15-20 minuti per arrivare a casa, probabilmente seleziono dalle 18:30. E dalle 18:30 non necessariamente una fascia di due ore come molti altri fanno, ma dalle 18:30 fino magari poi la sera sono a casa, quindi anche fino alle 22 che è il termine massimo. Ampliando dalle 18:30 alle 22 avrò un costo decisamente inferiore rispetto alla fascia di due ore. Certo. Senti, dal tuo punto di vista questo, cioè quello della logistica, sì, è il problema principale? È sicuramente il problema principale, o comunque uno dei problemi, sicuramente quello più impattante in termini di costi da un lato, quindi lato azienda, e soprattutto lato servizio per il cliente. Per quale motivo? Perché chiaramente stiamo parlando di un business, il nostro, che è di prodotti freschi, prodotti alimentari, che quindi hanno necessariamente da un lato l'e-commerce, quindi un lato diciamo così più online, ma dal lato un lato fisico e di prossimità. Quindi per esempio il magazzino che abbiamo a Roma è un magazzino alle porte di Roma, questo per permetterci... E che fa solo l'e-commerce. Fa solo l'e-commerce dedicato a noi, dove c'è un assortimento, come dicevo prima, di più di 10.000 prodotti, e di conseguenza per poter consegnare con un livello di servizio eccellente, che è la nostra ambizione, doveva essere alle porte di Roma. Ci affidiamo alla flotta di Milkman anche per quanto riguarda i furgoni, che quindi sono refrigerati a doppia temperatura, questo per permettere di consegnare un prodotto che è qualitativamente perfetto. Certo, Antonio, voi offrite il vostro servizio, quindi le vostre flotte di furgoni, anche per altri marchi abbastanza noti. Sì, per esempio i milanesi possono andare su Italy Today e godere di questo tipo di esperienza. In fase finale, quando si inserisce la destinazione, quindi l'indirizzo di consegna, si vive anche l'esperienza di selezionare la data, compresa oggi stesso, le fasce orarie con quel tipo di granularità. Rispetto alle fasce orarie fisse c'è anche il beneficio che non si saturano così in fretta. Tipicamente quando uno torna a casa alle 6:30 è costretto a scegliere magari la fascia dalle 8 alle 10, che cosa succede? Che non è più disponibile. Invece con questo meccanismo trova sempre... Perché tutti vogliono quella fascia, certo. Sì. Poi abbiamo altri clienti, Nespresso è uno dei più importanti. Il nostro sforzo è quello, accanto all'impegno che abbiamo con Coop di garantire la freschezza dei prodotti, quindi con una flotta dedicata e refrigerata, è di portare questo tipo di esperienza anche nel non alimentare e quindi servire anche i clienti, per esempio chi consegna vino. Ricordo Tannico, una delle più grandi enoteche online in Italia, che è servita anch'essa da Milkman e che dà la possibilità all'utente di dirci quando è disponibile. Allora, noi stiamo raccontando una tendenza del mondo dell'e-commerce, però c'è un problema, perché stiamo raccontando una tendenza che accade, ma come sempre succede, nelle grosse città. Antonio, possiamo sperare che, perché se parliamo di e-commerce in generale, questa è un'esperienza che è disponibile per tutti i cittadini, basta avere un collegamento ad internet, anche solo uno smartphone, e uno può comprare online e vedere il prodotto consegnato a casa. In questo caso quanto è possibile pensare e sperare che servizi del genere, magari non solo il tuo ma anche i corrieri che si ingegnino e che tecnologicamente diventino più smart? È un tema di volumi, la logistica è sempre un tema di volumi, anche di densità, senza dubbio, sì. Ecco perché si parte dalle grandi città, dove il consumo ovviamente e anche la penetrazione dell'acquisto online, per esempio, è più importante. Abbiamo recentemente esteso il nostro servizio anche all'Interland, per esempio, e abbiamo scoperto che in realtà è molto ancora più desiderato nell'Interland di quanto non lo sia in centro, perché effettivamente è ancora più raro trovare persone a casa se vivono fuori città, sono spesso al lavoro in città o in coda, in tangenziale. Sì, sì. Quindi la risposta alla tua domanda è questa: l'e-commerce cresce molto, ci si aspetta addirittura che i volumi raddoppino, parlando dell'Italia, nei prossimi 3 o 4 anni. Conta ancora una percentuale bassa rispetto allo sforzo logistico complessivo che i corrieri dedicano alle aziende, agli uffici, alle industrie. E quindi oggi loro sanno di avere un problema aperto, non è ancora così sentito perché la rete è caricata da un volume che deriva dal business storico di questo tipo di attività. Sempre di più, però, l'attenzione alle esigenze del consumatore finale diventa chiave per risolvere il tema dell'e-commerce, perché è l'unico comparto che cresce davvero, innanzitutto. Sì, tra l'altro con numeri sorprendenti, tutte le volte che vado ad un convegno in cui si parla di e-commerce, qui sono sempre numeri a doppia cifra. Sì, beh, addirittura in Italia il numero di famiglie dove c'è almeno una persona in grado di fare un acquisto online sta crescendo del 20-25% anno su anno, quindi sono cose che cambiano l'economia. Certo, certo. Simone, visto sempre dal punto di vista di Coop, che cosa si può migliorare per quanto riguarda la logistica o comunque l'e-commerce in generale? E ovviamente stiamo parlando di e-commerce di prodotti freschi, visto che la Coop, come altri supermercati, vende prodotti freschi. Non solo, però, ovviamente insomma, il focus è su quello. Gli interventi e le attenzioni sono sui due ambiti della logistica, quindi sicuramente la logistica dell'ultimo miglio, ne abbiamo parlato, ve l'ho raccontata prima, ci ha raccontato Antonio, ma fondamentale, e lì secondo me ci saranno gli investimenti più grandi in termini economici nei prossimi anni, è nella logistica interna, ovvero per rendere efficace ed efficiente un modello di e-commerce che tratta prodotti alimentari è fondamentale la logistica all'interno del magazzino, in questo caso, come dicevo prima, magazzino dedicato, per la preparazione e la consegna del cliente. Lì ci si gioca gran parte del livello del servizio lato utente e della possibilità di fare... Che cosa intendi? Ecco, cioè di automatizzare tutto? Automatizzare tutto è uno scenario, qualcuno l'ha già fatto, in questo momento da un punto di vista economico non starebbe in piedi. Quello che noi stiamo cercando di fare, che abbiamo fatto, è comunque mantenere il contatto umano, il tocco finale, cioè di chi prepara la spesa umano, ma cercare di rendere tutto quello che ci sta dietro il più automatizzato possibile, in modo tale di ridurre il più possibile l'errore, questo errore umano, e garantire quindi un livello di servizio per il cliente finale in termini di qualità del prodotto, di inevasi che sono prossimi allo zero, eccellente. Inevasi che cosa intendi? Intendo prodotti che magari al cliente non arrivano, ordino 50 prodotti, guarda caso un prodotto non mi arriva. Ecco, noi stiamo facendo il massimo e effettivamente i risultati ci stanno dando comunque ragione per ridurre questo numero di prodotti che magari non riesco a consegnare al cliente. Antonio. Un tema importante che abbiamo affrontato con Simone e il suo team è quello dell'integrazione dei processi partendo dalle esigenze del cliente. Quando l'utente arriva sul sito EasyCoop può già innanzitutto prenotare la consegna nella fascia oraria che gli è più comoda, quindi può procedere nel fare la spesa effettivamente con la confidenza che la disponibilità c'è e ci sarà. Questo, ovviamente l'utente non se ne accorge, ma fa partire una serie di processi in cui noi calcoliamo tutti i percorsi necessari per garantire a quell'utente l'arrivo puntuale e per la consegna al piano, quindi allochiamo tutti i tempi di servizio, tutti i tempi di guida, tutti gli eventuali tempi morti nel caso in cui uno arrivi in anticipo rispetto all'appuntamento. Questo accade subito dietro le quinte quando l'utente sta scegliendo i prodotti. Da questo deriva un piano che condividiamo con la logistica interna di EasyCoop, che prevede l'orario al più tardi di preparazione di ciascuna spesa nelle baie di carico. Quindi tutto il lavoro che poi permette effettivamente la consegna puntuale è ribaltato nel processo di elaborazione iniziale, in modo tale da garantire anche una giusta gestione delle priorità all'interno del loro magazzino. Quindi è quella che noi chiamiamo una supply chain, cioè una catena di organizzazione logistica che è focalizzata sull'esigenza del cliente e che inizia nell'esatto momento in cui l'utente interagisce sul sito. Il processo di selezione della fascia oraria, abbiamo detto quanto sia importante nella fase di acquisto, ma cosa succede dopo? Perché il tema poi è, a un certo momento, venite quando volete ma ditemi quando arrivate. Certo. Allora, i processi di Milkman permettono di migliorare l'accuratezza sulla stima dell'orario previsto di arrivo, indipendentemente dalla fascia oraria che l'utente ha deciso di acquistare, e addirittura nella nostra esperienza su chi vende non cibo in particolare, ma sono sperimentazioni che girano quindi a Milano sulla nostra flotta non refrigerata, è quella addirittura di pubblicare la mappa con la posizione in tempo reale del veicolo quando si sta avvicinando. Questo è molto d'aiuto per l'utente, che quindi è una micro gestione dell'appuntamento. Sì, io potrei anche essere al bar vicino a casa mia e vedere sulla mappa, dico: ah, sta arrivando il furgone, vado a casa. Esattamente. Senti, è possibile, non so se al mondo sta succedendo, integrare le flotte dei vari corrieri che ci sono in giro per il mondo? Perché effettivamente, se io faccio un acquisto dal negozio A, un acquisto dal negozio B, un acquisto dal negozio C, poi mi arrivano tre furgoni diversi. Certo, tu dirai: fai arrivare la merce presso il magazzino di Milkman e te la consegno io. Però al di là di quello che fate voi, insomma, anche dal punto di vista tecnologico, integrare tutto questo traffico di furgoni che ci sono in giro per le città e per le province, si può fare? È molto complicato. È un tema fondamentale che l'intera industria si sta ponendo. Stanno succedendo diverse cose. Una in particolare sono i marketplace, come Amazon per esempio, i quali accentrano così tanti volumi per garantirsi l'efficienza e quindi, diciamo, in prospettiva di approfittare di opportunità di consolidamento, si chiama nella logistica, quando si uniscono più spedizioni in un unico sforzo di consegna. D'altro canto però ci sono altre tendenze, per esempio il crowdsourcing. Crowdsourcing è una tecnica che permette di usare gli individui come possibili strumenti per veicolare la merce da un posto all'altro. Questa ha già dimostrato di funzionare come tecnica molto bene su quello che in gergo si chiama on demand, cioè la capacità di fare una consegna subito dopo l'ordine in tempi molto brevi. D'altro canto però non è ideale per garantire la predicibilità e la programmazione. Diciamo che lo sforzo che sta facendo chi offre consegne a domicilio oggi è capire come intercettare la domanda e come elaborarla in maniera tale da renderla fruibile in una maniera che sia meno fastidiosa e soprattutto più efficiente anche per l'utente finale. Certo. È un tema molto importante che passa sia dall'accentramento dei volumi da una parte, sia dalla dispersione invece dell'offerta di trasporto, che, come dicevi prima, ha un'esigenza di capillarità, che quindi è il contrario dell'accentramento e del consolidamento da un certo punto di vista. Se oggi a Milano noi offriamo le consegne fino alle 10 di sera e anche al weekend, cosa che tra l'altro facciamo anche su EasyCop a Roma, è chiaro che diventa più difficile garantire, nel momento in cui apriamo in altre città più piccole, lo stesso tipo di offerta così ampia. È il volume che nel tempo ci darà modo di garantire questo livello di servizio. Senti, quando leggiamo, sentiamo questi esperimenti che si stanno facendo con, adesso non voglio esagerare, ma ci sono anche i droni, oppure, cosa forse più concreta, la consegna in auto. C'è una sperimentazione tale per cui, se io ho un'automobile connessa alla rete internet, posso aprirla al corriere che arriva magari nel parcheggio, magari il parcheggio vicino a dove lavoro, apre lui, dopo che io l'ho autorizzato, la mia automobile, e mi infila il pacco nel baule. È una sperimentazione. Tu credi a queste cose che fanno molto notizia, o siamo ancora lontani e invece i problemi da risolvere sono molto più, insomma, un po' meno da notizia, un po' meno sexy? Tutte e due. E mentre l'industria sistema le tante frizioni che l'utente vive, non ultima, anzi la peggiore forse, è l'avviso di giacenza, quando uno torna a casa e scopre che il corriere passa, che è veramente forse nell'ambito della storia del retail il punto più basso, nel senso che adesso diventa un problema tuo, devi passare al telefono una mezz'ora con una voce automatica di qualche genere e per semplicemente diventare proprietario di quello che hai già pagato. Ma tolte le tante frizioni su cui appunto stiamo lavorando, senza dubbio tutte queste iniziative che menzionavi, dal drone alla consegna nel bagagliaio, sono volte a risolvere lo stesso problema, che l'utente non necessariamente sempre a casa. Ti ricordo anche le iniziative come i lockers, che sono quegli armadi securizzati, dei bancomat dei pacchi, per così dire. Sì, sì. Anche queste cercano di disintermediare i vincoli orari dell'utente rispetto a quelli della logistica. I punti di ritiro, le reti di prossimità, anch'io spesso uso questo meccanismo di fare spedire non a casa mia. Pensate che io vivo in una città che non è servita da Milkman, quindi non posso. Fai business in un'altra città. Vivo in una città che è Verona, dove ancora i volumi non giustificano questo tipo di sforzo, di setup. E poi, come giustamente dicevi, molta sperimentazione, capire che cosa funziona e che cosa non funziona. Ti faccio un esempio: in Francia le reti di punti di ritiro, quindi fai spedire per esempio alla cartoleria sotto casa, sono molto molto usate, in altri paesi europei molto poco, ma anche perché il tema poi della digitalizzazione del commercio passa anche dalla comodità, diciamocelo. È il valore aggiunto di EasyCop, è il valore aggiunto di qualsiasi e-commerce. Se io posso fare acquisti in qualsiasi ora del giorno, comodamente seduto sul divano col mio iPad, lo faccio perché ho del tempo in quel momento. Se poi per ritirare la merce devo rispettare gli orari di qualcun altro, diventa complesso. Sì, sì, quindi sì, sì. Il valore aggiunto di una consegna comoda, che sia nel bagagliaio, quindi me la trovo già caricata e non devo fare degli sforzi ad hoc, o il locker o la consegna su appuntamento, sono tutte alternative per risolvere lo stesso grosso problema, che è uno dei colli di bottiglia più significativi dell'intero e-commerce mondiale. Certo, sempre a proposito di prospettive, c'è una bella idea che tu hai, che non so come possa realizzarsi, ma soprattutto non so in quanto tempo possa realizzare, però è una prospettiva molto interessante, cioè arrivare al punto in cui le preoccupazioni che un cliente ha, o tutte le domande che un cliente si fa quando sta per comprare qualcosa online, vengano di fatto quasi tutte cancellate. Qual è questa idea? Ma parte dalla consapevolezza che il commercio si sta trasformando in maniera radicale. Come abbiamo visto, i numeri dell'e-commerce sono più importanti, è il momento in cui addirittura la consegna di alimentari e di altro tipo di categorie merceologiche si sta affacciando a questo tipo di nuova sfida. E io mi sono chiesto: ma quale sarà il commercio del futuro? Se tutto viene fruito sul web, rispetto ai temi della tecnologia che hai appena discusso con Simone, diciamo che l'osservazione è che la tecnologia non è più il digitale dentro al dominio digitale, non è più il gioco dentro allo smartphone o l'applicazione fine a se stessa, sta diventando più pervasiva. E in effetti, osservando anche il servizio che abbiamo creato con EasyCop, è ovvio che diventa la colla per far funzionare bene tanti umani, da chi prepara la spesa all'autista, l'acquirente che ha fatto l'acquisto e che quindi ha delle aspettative, e ovviamente poi l'aspetto più di gestione dell'intero assortimento. Quindi diciamo che la tecnologia oggi esce, se vogliamo, dal dominio digitale. Allora, osservando l'interazione che i nostri clienti hanno sui nostri servizi, ci siamo accorti di diversi aspetti legati proprio alle esigenze umane. Il primo è che più di metà dei nostri clienti app, consumatori dunque, consolida 2, 3 o più acquisti dentro una consegna finale, che vuol dire che non tutto è urgente. Quando arriva la cosa urgente è l'occasione per portare anche tutto il resto. Abbiamo notato che, pur esponendo opzioni di consegna in giornata o l'indomani, il 20% richiede dei giorni successivi, quindi ama pianificare in anticipo. E quello che è la conclusione finale dell'analisi del consumatore ci dice che dobbiamo minimizzare le frizioni, quindi il disappunto e il fastidio, e quindi la complessità logistica che deve rimanere un problema nostro. Nell'essere fruitore io stesso dei servizi di e-commerce, a volte mi sono chiesto: ma perché devo scegliere un negozio? Io voglio scegliere un prodotto, per esempio leggo una bella recensione, un articolo che mi parla di un prodotto, e sogno un web in cui io semplicemente dica: lo voglio. Che cosa significa questo? Beh, dietro le quinte ovviamente significa una rivoluzione logistica, che non è dissimile però da quello che si sta osservando nella cosiddetta sharing economy, dove io posso aver bisogno di un trapano che un mio vicino ha e che quindi non ha senso che io compri. Perché, certo, me lo prendo, tanto lo trapano funziona poche ore in un anno. Esattamente, il tema principale è che non è a casa mia, è a casa sua, e chi lo sposta, certo, è ovvio che questo comincia a avere un senso solo nel momento in cui non si disturba chi presta e non diventa una complessità enorme per chi usa. Quindi anche in quel caso l'aspetto logistico è importante. Quindi tu dici: io immagino un un World Wide Web, una internet in cui io vedo una cosa e la compro, cioè dopodiché chi se ne frega che cosa succede dopo. Esatto, è internet a essere il negozio, su quello trovo prodotti, prezzi, condizioni, ci sono già molti servizi che hanno il compito di trovare la soluzione ideale a miglior prezzo, osservando anche i termini della consegna a domicilio, quindi la tecnologia esiste per usare il web come negozio, si tratta però di consolidare appunto tutti i ritiri presso tutti i magazzini di questi negozianti, c'è un processo di consolidamento in atto perché c'è un tema di efficienza dietro le quinte, quindi ci sono fornitori di servizi logistici che accentrano la disponibilità della merce per molti negozi, per esempio, e questo rende sempre più possibile in un singolo ritiro presso un magazzino ritirare più colli per acquisti fatti su più siti, e ovviamente lo stesso va fatto lato consumatore, quindi raccogliendo in queste logistiche quello che afferisce per l'utente. Del resto ci chiamiamo milkman, che significa il lattaio, per seguire il concetto di una modalità abitudinaria. Cioè, fornire la propria vorrei casa. Passare tutti i giorni e portarti comunque qualcosa tutti che tu hai comprato, diciamo, chissà dove. Diciamo per esempio, semplicemente tutte le settimane, il giovedì dopo le 7, io so che sono a casa. Beh, venite lì e portatemi i miei acquisti. È chiaro che nel momento in cui ho l'ansia di vedere, che ne so, le scarpe nuove, io voglio richiedere una consegna immediata. Benissimo, vengo quando vuoi, ma ti porto anche tutti gli altri acquisti che invece tanto importanti non erano. Sì, sì. Molto bene, io ringrazio Antonio Perini per essere stato con noi, a presto. Grazie Enrico. E grazie anche a Simone Gerola, a presto e buon lavoro. Grazie Enrico, a presto. Questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini. Adesso ci trasferiamo a Modena. Molti di voi, direi tutti, sanno che questo è il weekend del concerto, del mega concerto di Vasco Rossi. Un concerto record da molti punti di vista. Beh, il primo numero che più volte è stato citato è il numero di presenze, record mondiale, oltre 220.000 persone. Ma ci sono altri record che riguardano anche l'aspetto tecnologico, come è successo in altre occasioni di grandi eventi. 2024 vi vuole proporre l'aspetto tecnologico, l'abbiamo fatto ad esempio con la finale di Champions League prodotta in Italia con un impianto incredibile, una quantità di telecamere e di strumentazioni tecnologiche veramente incredibile, e lo facciamo anche in questa occasione. Dal punto di vista tecnologico, questo impianto audio prima di tutto, perché stiamo parlando di un concerto, ma anche tutto l'aspetto di luci, video, come è fatto, come è stato costruito, quali sono i numeri. Allora, ascoltiamoli insieme. Siamo a Modena, siamo con Danilo Zuffi, che è il direttore di produzione di questo grandissimo e storico concerto di Vasco Rossi, e vogliamo parlare di tecnologia all'interno di questo concerto. Beh, Danilo, partiamo dalla progettazione, perché tutto quello che accade in questo parco, a Modena Park, è tutto progettato via computer con software che sono simili ai software che si usano per progettare le case, per fare progetti. I programmi, sì, è esattamente la stessa cosa. A noi ci arriva un bozzetto approvato, un rendering approvato, che ha fatto un creativo, approvato da un artista e approvato dal management, e noi su questo lavoriamo, cominciamo a buttarlo su delle mappe in AutoCAD, facciamo i dimensionamenti, andiamo a capire le grandezze, le profondità, la fattibilità, la tenuta del terreno, insomma ci sono diversi parametri sui quali iniziare a lavorare. Senti, parliamo dell'audio, visto che siamo ad un concerto e l'audio è probabilmente, direi, la cosa più importante. Si deve sentire bene, il pubblico deve essere coinvolto. Sì. Raccontaci un po' com'è il progetto audio di questo concerto. Ci sono due maniere di fare un grande evento, di fare in un grande evento con tanta affluenza di persone un concerto. La prima è quella standard che facciamo tutti, che abbiamo fatto tutti da sempre, e cioè noi copriamo i primi 100-150 metri molto bene e predisponiamo opportuna quantità di casse su ogni torre di ritardo audio e arriviamo, diciamo, fino a una certa distanza dal fronte palco. Quando invece, e poi gli extra, se l'area è più grande, man mano a calare le casse fino ad arrivare a un fuoco cosiddetto da a un suono cosiddetto da bivacco. Questo non è successo qui perché la richiesta da parte del management e, diciamo, la convinzione di tutti è stata quella di far sentire tutti con il medesimo impatto. Quindi, se tu ti trovi, il target è questo, ieri sera nella prova generale è successo, se tu ti trovi a 400 metri di distanza dal fronte del palco, senti come se tu fossi sotto al palco. E per fare questo ci sono 29 torri, ho capito 29, bene? 29 torri di delay, sì. Senti, la potenza sonora installata totale di questo concerto qual è? Sai, è sempre abbastanza difficile dare delle cifre precise. Perché? Perché, perché l'impatto acustico è composto da diverse variabili, inclusa quella addirittura della temperatura dell'aria. Cioè, io, se ho dell'umidità e se c'è tanta afa, il suono fa più fatica a oltrepassare, perché di fatto è una cortina questa afa o questo caldo o questa umidità. Sì, l'esperienza è quando c'è la nebbia che si sente un suono più ovattato, no? Proprio così. Comunque, ci sono vicino a 900 cabinets in totale, fra il palco e tutti quanti le torri di delay, subwoofer, e quindi mi sento di dire che abbiamo disponibili 750.000 watt, che non vuol dire 750.000 è un numero altissimo, ma non vuol dire che noi siamo a manetta sempre al massimo. Noi dosiamo questi 750.000, abbiamo la riserva per non mettere in crisi e per distribuire un suono pulito, asciutto e intelligibile, perché nulla di peggio di ascoltare un fortissimo, una roba distorta che dopo un po' è, cioè, dopo ti stanca, cioè. Senti, quando tu dici torri di delay, sì. Perché dici torri di ritardo? Ci sono 29 torri sparse per tutto il, sì, prato, esatto, di questo concerto. Fatte su 5, diciamo, semilune, semisfere nel prato. Torri di delay perché? Perché il suono in ritardo. Perché? Perché il suono, al contrario della luce, che è molto più veloce a arrivare da un punto A a un punto B, il suono invece ci mette abbastanza. Quindi si ragiona in fatto di millisecondi di ritardi, però in 400 metri tu puoi avere anche dei ritardi, e che cosa succede? Che il cantante canta e tu senti dopo un secondo la sua voce. Sarebbe una confusione, uno sfasamento e un disagio per chi ascolta. Quindi le torri di delay, che vuol dire ritardo, sono poste e calibrato in funzione di dare il segnale in ritardo, ma creare un blocco di suono unico che va. Se non ci fossero questi sistemi che controllano il ritardo, non si potrebbe far suonare in queste grandi aree. Certo, quindi ci sono delle macchine che automaticamente, in base alle distanze, ritardo. Posti, esattamente, anche lì, software delle ditte produttrici. Insomma, è abbastanza complesso. Noi qui abbiamo un bel fornitore, che è uno che ha una base con il numero più alto di casse K di VDOSC, le acustiche, in Europa. È Agora. Faccio una domanda sul video, perché c'è una parte importante anche video. Ci sono, sì, dei muri LED, che sono dei veri video giganteschi, molto importanti. Sì, sono 14x18 cada uno, ce ne sono 6. Due video grandi appaiati da 14x18 al centro, e poi con un sistema di rotaie a una certa distanza che muovono. Che cosa muovono? Non è che muovono il video, perché bisogna creare dei portali, abbiamo dovuto creare dei portali che si muovono, che tengono sui video, ma oltre che i video tengono su anche dei pod automatizzati che vanno su e giù di luci. All'interno di ogni portale c'è anche un generatore singolo, ci sono power box elettrici, ci sono il segnale, c'è un mondo ogni portale. È tutto per questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per aver utilizzato anche questa settimana il podcast in streaming oppure in download. Io sono Enrico Paglierini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate, o meglio mi trovate anche su Facebook oppure su Twitter. Ci risentiamo la prossima settimana.